4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Ancora una volta puntuali, ore 21 fino alle 22, qui su Radio 24 si affaccia 4 ruote e dintorni. Buona serata da Roberto Rasia, anche da Giacomo che mi aiuta in regia a farvi ascoltare tutte le voci che ci faranno compagnia. Puntata ricca, anche questa di fine agosto, quasi fine agosto, ci fa compagnia Tony Fassina. Tony Fassina è un nome molto conosciuto, soprattutto al nord Italia, ma non solo. Se voi vedete nei portatarghe, dove c'è il nome del rivenditore presso cui è stata comprata l'auto, devo dire che una su tre porta il nome Fassina. C'è un motivo, è uno dei più grandi distributori e venditori, ha tantissime concessionarie. Ci sono delle notizie anche che riguardano Infiniti, tra l'altro il gruppo di alto livello del gruppo Nissan, il brand di alto livello del gruppo Nissan, che insomma verrà, a quanto pare, glielo chiederemo fra pochissimo, venduto da Fassina. Sentiamo lui perché ci occupiamo in apertura di questa puntata di distribuzione, di vendita, di rapporti con il cliente in un momento di mercato in cui le marche italiane stanno andando forte, le city car vanno forte, tutto il resto continua un po' a piangere, salvo qualche eccezione come Subaru, come abbiamo sentito da Subaru Italia stessa due settimane fa. Allora, buonasera, benvenuto, perché è la prima volta che ci sentiamo, a Tony Fassina. Buonasera. Roberto, buonasera, grazie dell'intervento. Mi fa piacere presentarmi perché sì, rappresento diversi marchi in campo lombardo, veneto e da poco tempo l'Infiniti per tutta Italia, il marchio del lusso della Nissan, come dicevi. Io l'obiettivo è di firmare una macchina su tre, purtroppo fino ad oggi solo una su quattro. Beh, che cruccio, Tony, speriamo, che cruccio. Diamo anche due numeri per capire. Fassina Automotive ha chiuso l'anno scorso con un fatturato aggregato intorno ai 360 milioni di euro, sono tanti, e un utile netto, questo è un po' un dato che conta, in crescita del 5%. Ci fa capire, Fassina, come è distribuito questo fatturato, dove, in che zone, soprattutto su che marchi lei lavora di più? Credo che io devo un po' il mio successo ai marchi nazionali, Fiat Lancia Alfa e veicoli commerciali. Questo perché i miei marchi sono marchi storici, su tutta la mia corrispondenza in fondo c'è scritto la passione ci guida, perché diciamo che è veramente una passione, è per questo che riusciamo a essere in questo momento anche in controtendenza, perché proprio in questo momento tutto va male, ma noi il primo semestre l'abbiamo chiuso abbastanza bene, soprattutto per l'impegno che ci mettiamo nel remarketing delle macchine usate, le macchine che noi rientriamo. Ecco, che peso ha, Tony, l'usato rispetto al nuovo? Riesce a farmi una percentuale almeno di massima? Siamo 50-50. Ah, addirittura 50-50. Sì, sì, noi siamo 50-50 da sempre, siamo nati così, ci teniamo perché molte case hanno la difficoltà del remarketing di questo prodotto, e questo ci fa piacere dirlo, da sempre abbiamo curato questo settore. Il fatturato è diviso 50-50 e il fatturato per marchi invece, diciamo che un centinaio di milioni arriva da Fiat Lancia e Alfa, una cinquantina dalla Chrysler, una quasi 100 dalla Volvo, perché abbiamo 4 Volvo, Belluno, Treviso, Conegliano Veneto e Milano, soprattutto la Svezia Car, che è la più grossa. Diciamo che questa è la distribuzione un po' dei marchi. Infiniti per il momento pesa poco perché è un marchio solo a benzina, l'anno prossimo uscirà il diesel e puntiamo a 150 milioni di fatturato nel 2011, non 2010. Ecco, questo però era per dare un panorama, esatto, un panorama globale del mondo Fassina. Detto questo, ai nostri ascoltatori che probabilmente ci ascoltano, mi auguro numerosi, in abitacolo, magari durante gli spostamenti di questi giorni, Tony, cerchiamo di capire qual è lo sforzo di chi presiede un gruppo che conta su tante concessionarie nel rapporto fra il venditore e il cliente, e dall'altra fra il venditore distributore e la casa costruttrice, perché noi sentiamo sempre, lei deve sapere, le case costruttrici, giustamente, istituzionalmente, se parliamo di Renault parliamo con Renault Italia, meno frequentemente con i concessionari, sarebbe anche più complicato. Nel suo caso, essendo così esteso, ci fa capire che tipo di strategia c'è dietro? Da una parte lei deve parlare con Fiat, per esempio, dall'altra deve parlare con il ragazzo che viene a comprarle una 500 e vuole lo sconto. Io credo che in ogni caso dobbiamo usare il buon senso. Noi concessionari, la grossa fetta dei concessionari pensa soltanto a vendere il prodotto. Noi che siamo il braccio lungo della fabbrica dobbiamo pensare che abbiamo 30-40 mila lavoratori che devono fabbricare le macchine, non possiamo pensare sempre a licenziamenti, sì, cassa integrazione, per cui dobbiamo metterci anche nei panni delle nostre case mandanti, in questo caso Fiat, che per me, alla quale devo tutto, logicamente si chiama adempienza. La casa in questo momento, per far lavorare le fabbriche, ha un po' più di pressione del normale, ma tutte le case così, e il concessionario non deve sempre fare i propri interessi, deve un po' appoggiare la casa, per cui se c'è questo dialogo lei avrà sempre del successo, perché se io uso il buon senso anche la casa usa il buon senso nei miei confronti. Per quanto riguarda il cliente, io dico sempre ai miei ragazzi, ai miei venditori, ma non solo, anche agli accettatori, all'officina, che il cliente è il nostro padrone. Noi abbiamo la passione che ci guida, sì, però il cliente che comanda, il cliente che ogni giorno aumenta il passaparola, se si trova bene ritorna, se no non viene più. Sempre, anche in quel caso, tanto impegno tutti i giorni e tanto buon senso. Questo non vuol dire che non ci siano ovviamente delle aree di miglioramento, come si chiamano i difetti in formazione. Le racconto questa. L'anno scorso ho fatto un'inchiesta per Top Gear, un mensile che lei sicuramente conosce, del gruppo Quattro Ruote, e mi sono nascosto un microfono in una manica e sono andato a fare 5 preventivi in 5 concessionarie diverse della zona milanese per comprare 5 vetture. L'obiettivo era tastare l'esperienza, la capacità tecnica e la conoscenza tecnologica dei venditori, per cui mi inventavo domande, diciamo, anche un po' banali, come se io fossi uno sprovveduto qualsiasi che entra e chiede che cos'è l'ESP, manco ESP, ESP. Ecco, non sono neanche riuscito ad arrivare a commentare dettagliatamente, Tony, la competenza tecnica di certi venditori. Non serve a questo punto fare nomi, anche se li abbiamo pubblicati, tanto era tutto registrato, ma io ho trovato che il cliente fosse, in quel caso io, fosse poco padrone, come lei diceva ai suoi venditori, del concessionario. Cioè, in un concessionario addirittura, non dirò quale, io ho atteso 8 minuti, le assicuro che sono lunghissimi, prima di essere considerato. Lei che tipo di margine di miglioramento crede di avere nei suoi concessionari? Incredibile, incredibile, perché io, per quanto riguarda questa formula che prima hai utilizzato, sono, devo confessarlo, molto deficitario. Noi stessi ci facciamo delle barbe finte, si chiamano così. Noi ci mandiamo degli uomini, che pago 50 euro ogni visita, e li mandiamo dai miei venditori per capire. Noi abbiamo due criticità, non tanto l'attesa, perché normalmente, sì, siamo molto veloci, perché sennò multiamo il venditore se abbiamo la prova. Ma non tanto per l'aspetto, per la presenza, ma quanto per la preparazione. La preparazione è sotto due profili. Il profilo tecnico, se la macchina è semplice è abbastanza facile, se la macchina è un po' più complessa, come, non so, l'Infiniti o, certo, qualche macchina Audi con qualche strumentazione complicata, il ragazzo, il venditore, ci cade, spesso non è preparato. Ma soprattutto non è preparato nella formula, nella defiscalizzazione, nel noleggio, la differenza fra il full leasing, il leasing normale e il noleggio, non è preparato. Per questo da 6 mesi stiamo facendo dei corsi in Fiat con dei docenti molto bravi, e facciamo 4 ragazzi ogni settimana, fanno un giorno o due di preparazione sotto questo aspetto. Il nostro arco di miglioramento è infinito, come ripeto, siamo molto deficitari, soprattutto sull'aspetto tecnico e sull'aspetto di preparazione fiscale. E confessarlo vuol dire che è una grande prova di modestia da parte mia, perché in effetti io da queste vado a spendere del denaro per farmi delle barbe finte. No, infatti, stavo per dirlo io, lo lascio dire a lei. Effettivamente questo ne avrebbero bisogno molti suoi colleghi, devo dire, perché io sono rimasto abbastanza scandalizzato, l'ho scritto. Volevamo fare una specie di podio in questa inchiesta di chi si era comportato bene, invece abbiamo fatto l'asinario, cioè di chi si è comportato peggio, perché ho sentito cose che voi umani potreste anche non aver mai sentito. Ma questo va detto, spesso con marche importanti o con preparazioni tecniche affidate a uomini seri si ha anche quella capacità. Forse sono più concessionari o multimarca o qualcuno che ne ha un po' poca voglia, perché poi un conto è sapere le cose, un conto, come lei sa, è saperle dire. Le dico la mia personalmente, che mi deriva dall'esperienza radiofonica di molti ascoltatori che mi scrivono: vogliono essere considerati importanti i clienti, anche quelli rompiscatole, e secondo me su questo, si chiama qualità del servizio, si giocherà la grande battaglia del domani. Perché Tony, lei è d'accordo con me se le dico che un Alfa Mito, una Golf o una C30 della Volvo sono tutte bellissime auto, è vero o no? Sì, certo. A parte i gusti, poi conta saperla vendere. Sì, ma non è tanto saperla vendere, ma essere sempre in ogni modo preparati, sempre trasparenti. Quello paga sempre, perché molto spesso noi possiamo adottare qualche furbizia su qualche finanziamento che costa un po' di più, qualche riscatto che costa un po' di più, e il cliente viene raggirato con qualche centinaio di euro, non paga mai. Sempre trasparente. Quello paga sempre, perché paga a lungo. Chiaro. È bellissimo. Eh? Come dice Donato Losa, un imprenditore bergamasco illuminato, nel suo libro che vi citerò, perché parla anche di motori, in seguito dice: un cliente non è colui che entra nel nostro negozio una volta, ma colui che almeno ci torna la seconda. È verissimo. Grazie di cuore a Tony Fassina. Ci risentiremo durante l'inverno per capire come sta andando il secondo semestre. A prestissimo. Grazie a te Roberto, buonasera a tutti. Quattro ruote e dintorni. Mi auguro che la scorsa settimana foste all'ascolto, nonostante il Ferragosto, perché abbiamo assistito alla prima delle due parti di un racconto, un vero reportage di chi ha preso la moto, l'ha messa su un aereo, è atterrato in India e è andato sull'Himalaya in moto con la sua BMW GS 1200. Si chiama Fulvio Dodic, è giunto il momento di chiudere allora quel viaggio, ma non senza imprevisti, non senza qualche sorpresa. Caro Fulvio, bentornato. Grazie a te di nuovo per ospitarmi anche questa sera. Allora, fai un breve riassunto delle puntate precedenti, nel senso che ci racconti allora la meta precisa, anche lo scopo benefico brevemente, e così arriviamo a parlare di uno dei passi che tu hai dovuto superare per arrivare fino alla tua meta. Certamente, avevamo deciso di fare questo viaggio in India che prevedeva un anello con partenza Delhi e l'attraversamento dell'Himalaya, di quella che si chiama Great Himalaya, la parte più alta e più difficile, con arrivo culminante a Leh, che era la meta della nostra missione umanitaria, dove avremmo visitato il Tibetan Children Village, con una missione che ci era stata affidata da Italian AMA, l'associazione italiana no profit e onlus, che sostiene 150 dei 2300 bambini ospiti del villaggio, missione che abbiamo poi compiuto. E da lì attraverso il Kashmir e poi scendendo per il Punjab rientro a Delhi. Questo sostanzialmente il riassunto di quello che era il programma di viaggio. Decisamente interessante. Dunque l'hai fatto a fine maggio. Quanti sono stati i chilometri percorsi in sella della tua moto in tutto? In totale 3.000 chilometri. Fatto a fine maggio, tu ricordi correttamente, perché prima le strade sono chiuse. In effetti noi siamo transitati tra muri di neve. A volte sembrava veramente di essere dei bob. Noi con le nostre due BMW GS attraverso questi muri altissimi, guidati dal buon senso su dei fondi in cui c'era sassi tondi, 50 guadi in una giornata, arrivavi con gli stivali pieni d'acqua e con temperature che andavano a finire sotto ai 2-3 gradi. Devo dire, e raccomando a tutti, oltre all'attrezzatura, ne abbiamo parlato l'altra volta, quindi la moto in ordine, curata, i navigatori satellitari con le cartografie, gli appoggi e le vie di uscita d'emergenza, se del caso, raccomando a tutti quanti di avere una forma fisica se si affrontano viaggi di questo genere. Questo è importante. C'era anche il problema dell'ossigeno. Non lo dicono tutti, ma poi più ci si alza e più l'aria si rarefà, c'è meno ossigeno nell'aria e quindi ci vuole un certo atletismo. Era a posto la tua preparazione atletica? Ma io faccio ancora, nonostante i miei anni, che non sono propriamente 18, continuo a fare nuoto agonistico, ovviamente per gli age group. Maurizio, che era con me, fa ancora i campionati di apnea, per cui dal punto di vista carenza di ossigeno eravamo abbastanza preparati. Immagino. E quindi questo ci ha aiutato molto. E tieni conto che della lista enorme di passi superati, abbiamo superato il Panglala, che con i suoi 5.348 metri è il secondo passo scalabile più alto del mondo. Caspita. Ma quattro passi oltre i 5.000 è moltissimo. Passi oltre i 4.900, roba, 10 giorni sopra i 3.200-3.300 roba metri. Da far girare la testa anche al miglior atleta sicuramente. Senti Fulvio, ritorniamo un attimo alla moto, volevo sapere inconvenienti. Credo che il tuo compagno di avventura sia caduto una volta e che invece una mattina abbiate trovato lo scherzetto di qualche bambino che forse si è divertito con l'acceleratore un po' troppo. Ci racconti come ve la siete cavata in posti dove non è che ci siano i concessionari dietro l'angolo? Il primo vero inconveniente è stata la sorpresa che in un campo tendato, in una zona desertica, arrivati di notte alle 11 con gli stivali pieni d'acqua e la temperatura a meno 3, questo campo tendato che c'era stato promesso non esisteva e per fortuna abbiamo trovato tre baracche gestite e abitate da militari che ci hanno ospitato. Questo è stato il primo incidente non meccanico. Fatto questo, è vero, all'uscita di Lè ci siamo inoltrati in un percorso molto sconnesso, tutto fuori strada e anche sabbioso. Ad un certo punto a me si è intraversata la moto e l'ho tenuta e raddrizzata con un colpo di gas, ma già c'era molta polvere. Facendo questo il nuvolone è aumentato di dismisura, Maurizio è entrato nella nuvola e mi ha centrato in pieno. Io che ero felice, aia, perché avevo governato la moto, stando in piedi mi sono ritrovato invece a mal partito. Comunque in una mezz'ora in un villaggio in due con un po' di mezzi di fortuna abbiamo rimesso le moto in condizioni di andare e siamo potuti andare avanti. Invece una mattina abbiamo avuto questa sorpresa di trovarci il cavo della moto di Maurizio rotto. Probabilmente di notte i ragazzini attirati alla moto ci hanno giocato, hanno aperto il gas, ma guarda, alla fine abbiamo sempre avuto un'ottica di ottimismo, perché abbiamo detto, meglio qui dove ci sono degli esseri umani piuttosto che fra un'ora, tanto il filo era sfilacciato e si sarebbe rotto comunque nel mezzo del nulla. Quindi alla fine di ogni inconveniente abbiamo sempre guardato il bicchiere mezzo pieno e non quello mezzo vuoto. Decisamente. La cosa importante sì. è che ci ha consentito di fare questo viaggio in sicurezza, e lo devo dire, abbiamo parlato di moto, abbiamo parlato di navigatori satellitari, io uso i Garmin e delle cartografie, ma i pneumatici, perché su fondi di questo genere tu devi pensare che fai 3.000 km e devi cercare di farli potendo con un treno di pneumatici. Abbiamo forato diverse volte, li abbiamo sempre riparati da soli con i kit che funzionano benissimo in riparazione. Noi abbiamo per scelta utilizzato dei Metzeler Caruti che hanno una mescola abbastanza dura e ci hanno consentito di arrivare a Delhi senza un singolo cambio di pneumatico, che è che è stata veramente una bella impresa. Senti Fulvio, ti chiedo uno sforzo. Grandi pneumatici. Ti chiedo uno sforzo non solo per coloro che andranno in quelle zone, finora ci siamo riferiti alla tua avventura perché so che molti in realtà amano l'Africa, amano l'India. Ti chiedo per chi volesse fare dei viaggi anche a più corto raggio, 1000 chilometri, 500 un weekend, mi dai l'ABC di che cosa portarsi dietro che può servire e che spesso si dimentica soprattutto quando ti serve? Dall'impermeabile che copre la nostra tuta quando si riesce a viaggiare con la pelle o con materiali tecnici, lo sappiamo è meglio perché il vento alla lunga stanca, a che cosa? Cavetti, pezzi di frizione, oppure non serve niente con le moto di oggi? Guarda, no, serve di tutto. Allora, anche per i viaggi diciamo di corto raggio, partire sempre come se il tempo dovesse essere il peggiore possibile, sì, perché spogliarsi è un attimo. Trovarsi a mal partito sotto la pioggia, sotto il freddo e non avere di che coprirsi è veramente un problema che ti costringe a fermarti. Sicuramente anche per viaggi di poco conto un kit di riparazione gomme, perché occupa pochissimo spazio e ti consente di proseguire un viaggio riparandoti la moto da solo in pochissimi, veramente pochissimi minuti, e sono sicurissimi. Tu pensi che le forature che abbiamo riparato noi ci hanno portato fino a fondo e non si riconosceva neanche in cui avevamo eseguito la riparazione. E poi l'altra cosa che bisogna portarsi dietro, e questo vale per i viaggi lunghi, è tra virgolette la benzina. Non l'abbiamo accennato, ma è un problema. Parliamone dei consumi. Se i viaggi sono corti, ovviamente, e in zone più vicine a casa nostra, qui in Italia, il distributore non è un problema, ma in questi viaggi tra un distributore e l'altro ci sono anche 450-480 chilometri, quindi assolutamente fare bene i conti con la benzina. Ciò detto, se questo è vero per i viaggi diciamo di un certo tipo, quando il viaggio diventa più estremo devi necessariamente pensare a altro. Ovviamente le lampadine di scorta, ti devi portare le cose, se conosci bene la tua moto, e per questi viaggi la devi conoscere bene, le cose che pensi ti si possono rompere, quindi tipicamente le candele di riserva che non si rompono ma possono essere in condizioni di fermarti, assolutamente. Come si diceva prima, i kit riparazione, certo, ma se hai dei cavetti, portarsi dietro i cavetti, perché oggi le case ti danno dei cavetti con la doppia pallina, scusami il termine poco tecnico, la doppia intestazione da entrambi i lati, e non è così facile ripararli, anche se noi in India abbiamo trovato un indiano che ce l'ha fabbricata a mano con la morsa. Incredibile. Si fa veramente di tutto. Ottimo, già che ci siamo, parliamo anche alle fascette, importantissime. Fascette di plastica, nastro americano e stucco metallico. Queste tre cose, per chi fa del fuoristrada, devono sempre trovare un posto in valigia. Ricordatevelo voi che andate a farvi giri in fuoristrada. Parliamo di consumi. In Africa avevi avuto notevoli problemi non solo per l'approvvigionamento, ma proprio per il maggior consumo su quel tipo di terreno. In Himalaya che consumo ti aspettavi e che consumo hai avuto? Mi aspettavo un consumo simile a quello africano e difatti così è stato. Diciamo che è stato anche peggio. Probabilmente la quota ha avuto un ruolo importante da questo punto di vista, perché ci siamo ritrovati a fare un massimo di 500 chilometri. La moto in realtà ne farebbe molti di più sui fondi normali, ma tra il pneumatico tassellato e i fondi sconnessi e la salita, alla fine questo è il massimo che si può tirare fuori da un GS Adventure, che ricordo a 35 litri, lo dichiarano a 33, ma in realtà riesce a metterne dentro 35 litri di capacità serbatoio. Hai bucato il telaio per metterci dentro anche la benzina, no? No, ma l'avrei fatto volentieri. Tutto l'avrei fatto. Ma avete trovato una cartina con i distributori, oppure la vostra guida era in grado di conoscere le posizioni satellitari, no, dei distributori? Sì e no, nel senso che contavamo sul fatto che in questo tipo di chilometraggio il distributore l'avremmo trovato. Il problema vero è la qualità della benzina, perché la qualità della benzina indiana, e questo è l'altro aspetto che ha inciso probabilmente sul chilometraggio, quindi è veramente molto bassa e di conseguenza hai a che fare con degli ottani, un numero di ottani assolutamente ridicolo rispetto a quelli a cui siamo abituati noi. Però almeno benzina unleaded, quindi benzina verde, riesci a trovarla, per cui non riesci a partire anche senza dover smontare il catalizzatore della moto, perché la benzina senza piombo la trovi. Molto bene, siamo giunti al termine di questa avventura. Quattro ruote e dintorni. Vi è mai passato di andare sull'Himalaya con la moto? Fulvio Dodic l'ha fatto dopo l'Africa, quest'anno l'Himalaya è venuto a raccontarcelo, siamo al termine di questa bella chiacchierata. Mi premeva chiederti ancora una cosa, Fulvio, abbiamo detto di che cosa portarci dietro a livello di attrezzature, ricambi, quello che si può portarsi dietro in moto, ma a livello farmaceutico? A livello farmaceutico certamente bisogna avere una lista di farmaci e portarli al seguito, sicuramente qualcosa per la dissenteria, per lo stomaco, antinfluenzali. Io ho una checklist che verifico tutte le volte prima della partenza e rinfresco i prodotti tutte le volte prima di andare via. Non si può andare via senza avere una farmacia al seguito. Anche a seconda evidentemente della destinazione, evidente, perché in Africa immagino che tu abbia dovuto fare, forse, non lo so, te lo chiedo, anzi qualche terapia preventiva. Assolutamente sì, ci sono paesi in cui devi fare profilassi antimalarica oppure devi fare vaccini, non è il caso dell'India, ma nel caso dell'Africa ciò è assolutamente vero. Molto bene, senti Fulvio, allora arriviamo alla meta, sei vicino a Le, siete arrivati e avete portato a termine il vostro viaggio. Sì, da Le, attraversando appunto il Kashmir fino a Srinagar, dove oltretutto abbiamo trovato una situazione veramente assurda con delle rivolte in corso e polizia e militari in antisommossa, abbiamo attraversato il Punjab e siamo ritornati a Delhi. Ingresso a Delhi di notte, veramente incredibile, attraverso quartieri, ti direi, indescrivibili, dove tra posti belli e apparentemente ricchi e posti dove invece navighi tra mucchi di pattume, non c'è un sistema di raccolta in India su cui pascolano le mucche. Però arrivati finalmente in albergo, finalmente una doccia dopo acqua fredda, mancanza d'acqua, mancanza di corrente elettrica in tanti posti in cui eravamo stati, e sommersi dalle persone che volevano sapere cosa facevamo, volevano vedere le moto, volevano toccarle, far fotografie. È stata veramente un'esperienza meravigliosa. Bellissimo. Se dall'Africa sei tornato dicendo qui ci tornerò, mi fai anche la morale della favola di questo Himalaya in moto, Fulvio? Certamente, ho già altre cartografie, la morale è carissima, ma non vi dirò ancora, non punterò la ruota anteriore questa volta. Inarrivabile. Perché è un morbo progressivo. È un morbo progressivo. Ci dai un sito, se te lo ricordi, o due, su cui andare a prendere informazioni? Non so se ho il solito consiglio è quello di cercare i forum di appassionati enduristi. Vi posso dare il nome, ma dovrebbe corrispondere anche al sito, e quindi sì. Mercury Himalayan Exploration, che è la società che si occupa di organizzare viaggi off-road in India, e quindi ti supporta a secondo di quello che vuoi tu, dal quasi nulla al quasi tutto. Questo è assolutamente importante. www.italianamala.com per coloro che invece volessero sapere di più sui Tibetan Children Village e su come supportarli. Amala in tibetano significa mamma, e questa associazione fa veramente molto per questi bambini che passano gli inverni a 35 sotto zero senza neanche i pigiami. E una volta, possiamo dirlo, lui c'è stato, l'ha visto, funziona, ci sono i bambini, arrivano gli aiuti, viva Dio quando si riesce a toccare con mano anche queste esperienze. Fulvio Dodic ci ha fatto compagnia, grazie di cuore per il tuo coraggio, per la tua capacità di restituire anche le emozioni. Aspettiamo un po' di foto, le metteremo sul web nelle prossime settimane. Fulvio, ricordati di mandarle sempre a 4ruote@radio24.it, che è l'indirizzo mail che serve per giungere anche fino a Fulvio. Ciao e grazie. Grazie, ciao a tutti. E adesso dalle strade polverose e pericolose dell'Himalaya passiamo invece a quelle sicure, decisamente modernamente asfaltate, di casa nostra. Infatti torna il Gran Premio Nuvolari, sarà la 19ª edizione moderna di un evento, devo dire, dall'indubbio prestigio nel panorama internazionale di quelle che sono le manifestazioni automobilistiche sportive riservate però alle auto d'epoca, dal 18 al 20 settembre 2009, quindi fra un mesetto. Ne parliamo in compagnia di Claudio Rossi, è il presidente del comitato organizzatore di Mantova Corse. Buona serata, Rossi. Buona buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori. Proprio per gli ascoltatori le chiedo di descrivere per filo e per segno questa esperienza meravigliosa, quante auto ci saranno e a chi è riservato. 19esima edizione, come avete detto, il Gran Premio a Nuvolari è una manifestazione di auto storiche, di regolarità. I numeri, 300 auto che coprono un periodo che va dai primi anni 20 al 67, che è il tetto limite di anzianità che abbiamo messo. Abbiamo un parterre abbastanza importante perché di pre-war, quindi di auto costruite tra il 20 e il 40, ne abbiamo circa un centinaio e devo dire che dopo la Mille Miglia è sicuramente l'unica manifestazione al mondo che ha un parterre di questo tipo. Tra l'altro va detto, Claudio, che quest'anno si celebra anche il centenario di una casa importante, il marchio Audi, che sì, sarà coinvolta, vero, durante la gara? Certo, Audi che è il nostro main sponsor, festeggia, diciamo, in Italia il centenario proprio attraverso la nostra manifestazione. Quindi ci sarà una particolare campagna stampa, ci saranno degli ospiti, ecco, tutta una serie di, diciamo, azioni a contorno proprio per sottolineare questo aspetto del centenario. È Nuvolari, corse con l'Auto Union, vinse con l'Auto Union e Audi si è da tempo ricordata di questo passato trascorso storico e quindi ci ha aiutato nella nostra manifestazione. Ecco, parlavo di numeri per dirti anche che la nostra è una manifestazione molto tecnica, sono un po' più di 1000 chilometri divisi in tre tappe, con 60 prove a cronometro, e questo la rende molto impegnativa. D'altronde non per niente è intestata e ricorda Calcio Nuvolari, e noi come organizzatori abbiamo così sempre cercato, certo, di metterci un po' mettere un po' il sapore della competizione all'interno. Tra l'altro è anche il 70esimo anniversario della storica vittoria proprio di Tazio, sì, Nuvolari al Gran Premio di Belgrado, che era avvenuta l'8 settembre del 39. Era a bordo, se non sbaglio, di un'auto Union tipo D, vero, del, esatto, 39. Che sarà presente a Mantova, quindi per gli appassionati. Bellissimo. Sarà esposta a Mantova. Ricordo anche che alcuni anni fa quell'auto girò per le strade cittadine e fu veramente un fantastico. Sì, fantastico, perché un 16 cilindri messo in moto, cioè un concerto. Certo. Senti, Claudio, approfitto della tua presenza perché sei anche appassionato ma esperto conoscitore del settore. Fai capire a chi non lo fosse come funziona e quanto costa partecipare, quant'è l'impegno proprio economico partecipare a questi concorsi o di eleganza o di auto d'epoca o gare come questa? Varia molto a seconda di manifestazioni di auto storiche, ce ne sono moltissime, il panorama è ricchissimo in Italia. Diciamo che si va dalle manifestazioni di una giornata a quelle appunto più impegnative di 3-4 giorni. Quindi i costi possono variare molto, diciamo che per quanto ci riguarda l'iscrizione dell'equipaggio costa 2.100 euro, tenuto conto cioè all'interno di questo c'è l'ospitalità per i tre giorni, che ha una incidenza abbastanza elevata, abbastanza forte. E io ricordo sempre che se non ci fossero gli sponsor non si riuscirebbe a coprire i costi organizzativi, perché come vi ricordavo prima, 60 prove speciali vuol dire avere uno staff tecnico di circa 350 persone, tra cronometristi, commissari. Certo, certo. Ecco, la particolarità di questa edizione, che ricalca e migliora in parte quella dell'anno scorso, è il fatto che abbiamo inserito sul percorso due circuiti, Imola e Misano. Ecco. Imola, circuito della diciamo che tutti ricorderanno per la presenza della Formula 1, fino a qualche anno fa, modernizzato. Sì. E Misano in notturna, e questa è un po' una chicca perché 10 prove speciali si svolgono sull'autodromo. L'anno scorso abbiamo visto, è stato uno spettacolo notevole vedere queste auto circolare correre, sulla pista, correre, proprio, certo. Il correre è limitato al fatto che, anche vi ricordo che sono gare in cui vale molto l'orecchio, soprattutto più che il piede sull'acceleratore, perché si misurano le penalità in ritardo anticipo di centesimi di secondo, addirittura un'entità che non è umana, sono millimetri più che centimetri, sì, vero? Infatti gli specialisti grandi al Gran Premio partecipano i più grandi specialisti del mondo, italiani, argentini. C'è una fortissima scuola argentina, loro viaggiano sul ritmo, quindi è l'orecchio che conta, sono veramente molto bravi e è uno sforzo notevole. Il bello del Gran Premio è che negli anni siamo riusciti a iniettare il virus dell'agonismo anche a chi pensava di venire a fare il Gran Premio come passeggiata turistica. Fantastico, questo è preso dal clima, poi chiaro. Uno si lascia andare, si lascia entusiasmare, quindi poi li vedi anche quelli che non hanno e che non avranno mai ambizioni di vittoria, contagiati dalla competizione, però armeggiano con i cronometri. Fantastico. Senti, un'ultima cosa, per quanto riguarda la manutenzione, la cura di queste vetture d'epoca, sono molto delicate. Avete un servizio apposito, ognuno pensa per sé? Allora, noi abbiamo, al seguito abbiamo dei carri attrezzi, perché purtroppo succede che qualche nonna rimanga a piedi. Devo dire che il grado di preparazione delle auto, soprattutto negli ultimi anni, è elevatissimo, soprattutto per le auto più vecchie. Quindi quello che succede è cioè assistiamo ad auto più giovani che si fermano, viceversa le più vecchie vanno sempre. Questo perché forse c'è meno attenzione da parte dei proprietari delle auto più recenti, mentre invece è maniacale la cura in quelle più vecchie. Ci sono, ad esempio, faccio un nome su tutti, le Bugatti, tante partono e tante arrivano, non c'è mai successo, certo, per questi anni, certo, di vedere una grande Bugatti affidabilità. Fermata. È chiaro. L'appuntamento è dal 18 al 20 settembre di quest'anno, fra un mesetto, per il Gran Premio Nuvolari, 19esima edizione. Tutte le informazioni si trovano facilmente, infatti, su internet, lo cercate www.gpnuvolari.it. Grazie a Claudio Rossi, presidente del comitato organizzatore Mantova Corse. A prestissimo e grazie. Grazie, arrivederci. E in bocca al lupo a tutte le nonnette, come Claudio le ha chiamate. Quattro ruote e dintorni. Allora, ultima parte della nostra trasmissione di fine agosto. Emilio De Leidi da Quattro Ruote ci fa compagnia ancora una volta con le sue inchieste, le sue notizie. Stasera ne ha ben due per noi. Caro Emilio, buonasera e bentornato. Buonasera a voi. Visto che molti sono in montagna e si dedicano il fine agosto con l'aria fresca, parliamo di passi e c'è una notizia che proviene dalla provincia di Bolzano, se non sbaglio, che vuoi diffondere con un po' di preoccupazione in realtà, vero? Ma sì, se ne parla da tempo, perché il dibattito non è di quest'anno, ma la notizia è passata un po' sotto silenzio, ma la provincia di Bolzano ha approvato una delibera in base alla quale a partire dal 2010 il transito sul passo dello Stelvio sarà a pagamento. il ticket sarà di 5 euro per le automobili, 12 per i camper, per arrivare fino a 25 euro per i pullman. Non è una cosa del tutto inedita, ci sono strade di montagna a pagamento anche in Svizzera o in Austria, ma è la prima volta che un ente autonomo italiano prende un provvedimento di questo genere, scatenando delle polemiche, perché Trento ha già detto di no, la Lombardia, ricordiamo che lo Stelvio collega la Lombardia al Trentino Alto Adige, non si è ancora espressa, ma è orientata in senso negativo. Bolzano gode, come sappiamo, dell'autonomia di una provincia a statuto speciale, però il dibattito sui passi a pagamento in montagna ormai è aperto ed è realtà. L'esigenza è puramente finanziaria? No, l'esigenza è, come spesso accade, ammantata di motivazioni ambientaliste. Si cerca un pochino di ridurre il traffico in montagna, che come si vede anche soprattutto nei mesi di luglio e agosto è sicuramente impattante. E poi si pensa di utilizzare parte di questi fondi, non verrà chiesto naturalmente ai residenti di pagare il pedaggio, ma a tutti quelli che passano di lì, per costruire infrastrutture, per esempio più parcheggi, e già questo ha scatenato una opposizione degli ambientalisti che non vogliono più parcheggi nelle aree di montagna, per non attirare ulteriore traffico, o comunque per la manutenzione dei parchi. Su questo si potrebbe discutere, perché effettivamente l'accesso a un parco può anche essere a pagamento, pensiamo a tutti i parchi degli Stati Uniti che si mantengono, esatto, così, sì, sì. ma il pedaggio su una strada è qualcosa di diverso, ovviamente. Decisamente, poi andrebbe equiparata anche legislativamente con le strade a pagamento, vedi autostrade e pedaggi, però Bolzano ha quella autonomia nella provincia che la rende un po' diversa da tutti. Staremo a vedere che cosa succederà. E invece la seconda notizia che ci dai questa sera, particolarmente importante, riguarda la sicurezza di tutti noi, non solo per chi ha l'ESP a bordo del proprio veicolo, ma anche per il nostro vicino, che potrebbe crearci un problema all'incrocio, nella curva, quando ci precede o ci segue. Infatti Bosch ha dato una notizia in Italia, Emilio. Sì, esatto. Recentemente il 51% delle auto vendute in Italia è risultato equipaggiato con l'ESP, il sistema anti-sbandamento, appunto prodotto dalla Bosch, e che quattro ruote ha sempre sostenuto come di fondamentale importanza per la sicurezza. È un dato importante, perché ricordo che nel 2003 eravamo solo al 14%, nel 2006 al 35%, poi, anche se me lo consenti, in virtù di una nostra campagna in favore delle SP, è una bella crescita, sì, sì. Si è arrivati al 51%. Siamo convinti che non si debba andare a lesinare su questi aspetti e magari rinunciare alla vernice metallizzata, ecco, a qualche cosa di meno, certo, importante, certo, dal, certo, punto di vista della sicurezza. Questo è consigliabile. Tra l'altro stavo ragionando, circa 2 milioni di veicoli contati male si vendono in Italia, vuol dire che 1 milione ha l'ESP a bordo, però 1 milione di nuovi veicoli non ce l'ha, sono nuovi veicoli che certo non termineranno di vivere fra 6 o 12 mesi, quindi vuol dire che fra 4, 5, 6, 8 anni ci saranno ancora in circolazione. Certo, ci sono ancora delle remore, soprattutto ci vengono segnalati, l'abbiamo constatato anche con le nostre inchieste, sulle auto di cilindrata di costo più piccolo, che spesso vengono addirittura dai venditori delle concessionarie, che spaventati da un prezzo magari troppo alto, dal rischio di perdere il cliente, preferiscono addirittura sconsigliare questa spesa aggiuntiva. Oppure, certamente, c'è successo nelle nostre inchieste, oppure non le hanno, per esempio, nelle auto in stock, e quindi usano, come spesso accade, delle così delle scuse, dicendo che poi non è così importante, la macchina è già l'ABS, dipende più dall'abilità del guidatore, vabbè, più, sì, più elettronica c'è, più si rompe. Si inventano di tutto per promuovere il prodotto in pronta consegna e quindi realizzare subito questa vendita, che altrimenti potrebbe essere a rischio. No, invece sappiamo quante migliaia di vite umane ha salvato l'ESP, come molte altre applicazioni tecnologiche intelligenti, ben funzionali alla guida, e quindi viva l'ESP, speriamo che si diffonda sempre più frequentemente. Emilio, grazie per queste due notizie che ci hai voluto regalare questa sera, a prestissimo, buon fine agosto, ci sentiamo una delle prossime due puntate. Certamente, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Arriviamo adesso ad un argomento caldo, sempre molto seguito. Per raggiungere l'avvocato Lievore, che è in onda, è sufficiente scrivere all'indirizzo 4ruote@radio24.it. Avvocato, buonasera. Buonasera a lei, suoi ascoltatori. Quest'estate se ne sono sentite di tutti i colori, ma ancora tanti sono coloro che devono fare le vacanze e devono ancora partire. Allora ne approfittiamo per un'urgenza che ho notato personalmente sulle strade. Che cosa dice il codice della strada che lei ha la pazienza di insegnarci puntata dopo puntata da ormai 6 mesi a proposito dei carichi su un veicolo per evitare una multa, dato che spesso si vedono delle vere e proprie case viaggianti in maniera anche molto molto pericolosa su un veicolo carico? Allora, innanzitutto diciamo che c'è una norma che disciplina questo argomento e questo ci fa subito capire qual è l'importanza di questo tema, ed è proprio l'articolo 164 del codice della strada, che stabilisce infatti come il carico di un veicolo debba essere sistemato in modo da evitarne la caduta, la dispersione ovviamente, ma in modo anche da non diminuire la visibilità al conducente, né impedirgli la libertà di movimento nella guida, in modo da non compromettere la stabilità e la visibilità del veicolo da parte di altre persone, di altri conducenti, e comunque da non coprire quei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, tantomeno la targa del veicolo. Decisamente, se no la pericolosità aumenta, ma impedisce poi anche la leggibilità della stessa. E per le dimensioni, che cosa dice il codice della strada? Allora, il codice della strada dà delle vere e proprie misure riguardo alle dimensioni del carico, dicendo che questo non può sporgere nella parte anteriore del veicolo, può sporgere longitudinalmente nella parte posteriore fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, purché comunque non sia eccedente i 12 metri di lunghezza, considerando anche eventuali organi di traino che possono essere collegati al veicolo. Possono sporgere invece lateralmente le cose trasportate, quindi anche fuori dalla sagoma del veicolo, purché questa sporgenza non superi i 30 centimetri delle luci di posizione anteriore o posteriore. In ogni caso ricordiamo che la sporgenza dovrà essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari rivestiti di quel materiale retroriflettente posti alle estremità delle sporgenze. È vietato poi trasportare cose che si trascinino sul terreno, anche se sostenute eventualmente da 2 ruote. Eventualmente, è chiaro. Senta, parliamo allora di sanzioni, così chiudiamo anche l'argomento dei carichi che vengono alle volte veramente posti sopra, dietro, a lato di un veicolo senza rendersi conto della pericolosità dell'azione stessa. Sì, le sanzioni in questo caso sono proprio per la gravità del carico anche relativamente importanti. Infatti chi viola queste disposizioni è soggetto a una sanzione amministrativa per un pagamento di una somma da 74 a 296 euro, oltre alla decurtazione di 3 punti dalla patente. Ma in ogni caso non potrà proseguire il viaggio il veicolo trovato fuori norma, per cui l'organo accertatore procede immediatamente al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida, conducendo il veicolo in un luogo idoneo a sistemare questo carico, per cui solo col carico adeguato e sistemato i documenti verranno eventualmente restituiti all'avente diritto. Molto bene, per entrare in connessione con l'avvocato Lievore è sufficiente scrivere a 4ruote@radio24.it. Grazie avvocato e buona serata. Grazie e buonasera a lei, ascoltatori. Allora, salutato l'avvocato Lievore, vi do un paio di informazioni. Intanto, anche se lo conoscete già, ripeto l'indirizzo web per giungere fino alla nostra trasmissione. Voi è sufficiente che clicchiate su radio24.it nella sezione programmi, il programma si chiama 4 ruote e dintorni. C'è una mail per entrare in connessione con tutte le voci che abbiamo ospitato. Voi scrivete a noi, noi smisteremo la posta 4ruote@radio24.it. radio24.it. E poi un'informazione di servizio, perché ancora per due sabati, quindi il 29 e poi il 5 settembre, saremo in onda dalle 21 alle 22, quindi trasmissione allungata come è avvenuto per tutto agosto, con puntate fresche, temi freschi mai andati in onda prima. Tutto questo per coloro che stanno viaggiando in questo momento, parlando di motori, la vostra, la nostra grande passione. Giacomo Spunti a regia ci ha fatto compagnia, Roberto Rasia vi ha parlato, vi augura un buon weekend e vi aspetta sabato prossimo. Buona guida a tutti.